Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Introduzione di Stefano Gallerani. Dino Buzzati pubblica presso Rizzoli, Deserto dei Tartari, nel 1940. Il dato cronologico non è irrilevante per capire la genesi e il valore del romanzo. Mi spiego. L'Italia e l'Europa vivono in quegli anni in un confuso stato d'attesa. In Italia, quella veglia perenne che in termini psicologici fu il fascismo sta per terminare. In Europa, la Seconda Guerra Mondiale è già scoppiata. E anche dove ancora non si combatte, si attende e si teme al tempo stesso qualcosa di risolutivo. Ma per Buzzati, entrato giovanissimo al Corriere della Sera, quelli sono anche gli anni dell'apprendistato al giornale, cui resterà legato fino alla morte, nel 1972. Lavora di notte, non rincasa mai prima delle 3, e teme che la sua vita si consumi inutilmente nella monotonia della routine redazionale. Così, forse per esorcizzare la paura, forse per scacciare la noia di quelle notti, quando tutta la città è immersa nel silenzio, Buzzati inizia a scrivere la storia di Giovanni Drogo, quello che diventerà il protagonista del Deserto dei Tartari. Per lui non è l'esordio letterario, poco più che trentenne ha già alle spalle l'esperienza di due romanzi. Per i tipi dell'editore Treves, sono usciti, pur accolti da alterni riscontri di critica e di pubblico, Barnabo delle Montagne nel 1933 e Il Segreto del Bosco Vecchio nel 1935. Ma per Buzzati, Il Deserto dei Tartari, che da principio avrebbe dovuto intitolarsi La Fortezza, è certamente il libro della vita, è lui stesso ad ammetterlo. Per molti versi, la storia di Giovanni Drogo è un po' la sua storia, è l'emblema della sua opera, ne presenta già compiuti i temi più profondi e gli enigmi più ricorrenti. Trasposta in un mondo militare fantastico, Buzzati cristallizza l'esperienza di una vita, logorata dall'attesa dell'evento che spezzi l'assedio dell'inazione. Un'intera esistenza è affidata alla speranza di riscattarsi con una morte eroica. Nella perenne vigilia della battaglia contro i Tartari, il nemico favoloso che minaccia con le sue ombre la pace dell'impero, la vita di Giovanni Drogo si esaurisce. Come in una scatola magica, la solitudine sconosciuta del forte avvolge lui e i suoi compagni. Ufficiali stanchi e disincantati, o soldati spensierati, attendono come lui che il nemico si affacci oltre i bastioni. Come lui, prigionieri di un'illusione, anelano lo scontro pervasi dall'incubo del nulla. Nella metafora della fortezza, come riflesso della battaglia che ci abita e che forse abitava Buzzati in quegli anni, è racchiuso in potenza tutto il suo immaginario. La fortezza, questo tutto unico, questa sfinge gotica, e forse proprio la chiave gotica potrebbe essere una nuova chiave di lettura del romanzo, rapisce Drogo, lo strega, e quando pure, dopo 4 anni di servizio, una breve licenza lo riporta alla vita civile, Drogo già intuisce che il tempo e la lontananza hanno steso definitivamente un velo di separazione tra i suoi affetti passati e l'eterno presente della consuetudine militare. Nonostante possa sempre rassegnare le dimissioni, sente che la sua vita ha ormai preso una strada, e sa che se anche questa strada non dovesse portarlo da nessuna parte, tornare indietro sarebbe stupido, sarebbe vano. Le vette e le valli che circondano la fortezza hanno parlato al suo cuore. Un torpore misterioso, un incanto narcotico, lo avvincono alle creste delle montagne. Qualcosa lassù lo ha guardato dritto in faccia e lui ancora non lo vede. Lavorando una trama scarna ed essenziale, punteggiata di chiaroscuri come la prosa in cui è svolta, Buzzati nel deserto registra le stazioni di una mitologia personale, forse la sua. Sottovoce, quasi ci svelasse un segreto, rappresenta l'affanno dell'esistenza con un'allegoria esemplare. Come le fatue considerazioni diventano la specialità degli uomini condannati, il detonatore delle loro più riposte paure, così le leggende gotiche, con i Tartari e le loro invasioni, riempiono di logiche presenze le pianure desolate del nord. Il rapido fluire del tempo e l'assillo di una crisi intima sono iscritti in una realtà fiabesca ed ossessiva. Una realtà in cui paesaggio e simbolo si fondono in un principio di ordine morale. Il principio per cui il tempo stesso, trascorrendo, origina l'attesa e deride il fallimento della rinuncia. Buon ascolto. Thank you. Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio, si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare, si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori, nelle vie, passare la gente libera e presumibilmente felice, delle sveglie invernali nei cameroni gelati, dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri, né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli erano sembrati odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale. Avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato. Ma in fondo si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza, era probabilmente finito. Così, Drogo fissava lo specchio, vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto, che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso! Perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce, così familiare ed umano? Perché girava per la camera con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto, che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca, per la madre, che frasi generiche, vuote di senso, invece che affettuose e tranquillanti parole? L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa, dove era nato, alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento, la commozione di salutare la mamma, gli riempivano, sì, l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva di identificare, come un vago presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno. L'amico Francesco Vescovi lo accompagnò a cavallo per il primo tratto di strada. Lo scalpitio delle bestie risuonava nelle strade deserte, albeggiava. La città era ancora immersa nel sonno. Qua e là, agli ultimi piani, qualche persiana si apriva, comparivano facce stanche, apatici occhi fissavano per un momento la nascita meravigliosa del sole. I due amici non parlavano. Drogo pensava a come potesse essere la fortezza Bastiani, ma non riusciva a immaginarla. Non sapeva neppure esattamente dove si trovasse, né quanta strada ci fosse da fare. Alcuni gli avevano detto una giornata di cavallo, altri meno. Nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai stato. Alle porte della città, Vescovi cominciò vivacemente a parlare delle solite cose, come se Drogo andasse a una passeggiata. E poi, a un certo punto: «Vedi quel Monte Erboso?» «Sì, sì, proprio quello.» «Vedi in cima una costruzione?» diceva. «È già un pezzo della fortezza. Una ridotta avanzata. Ci sono passato 2 anni fa, mi ricordo, con mio zio, per andare a caccia.» Erano ormai usciti dalla città. Cominciavano i campi di Gran Turco, i prati, i rossi boschi autunnali. Per la strada bianca, battuta dal sole, avanzavano i due, fianco a fianco. Giovanni e Francesco erano amici, vissuti insieme per lunghi anni, con le stesse passioni, le stesse amicizie. Si erano visti sempre ogni giorno. Poi Vescovi si era fatto grasso, Drogo invece era diventato ufficiale e adesso sentiva come l'altro fosse oramai lontano. Tutta quella vita facile ed elegante oramai non gli apparteneva più. Cose gravi e sconosciute lo attendevano. Il suo cavallo e quello di Francesco, gli pareva, avevano già un passo diverso. Uno scalpitare, il suo, meno leggero e vivace, come un fondo di ansia e fatica. come se anche la bestia sentisse che la vita stava per cambiare. Erano giunti in cima a una salita. Drogo si voltò indietro a guardare la città contro luce. Fumi mattutini si alzavano dai tetti. Vide di lontano la propria casa. Identificò la finestra della sua stanza. Probabilmente i vetri erano aperti. Le donne stavano mettendo in ordine. Avrebbero disfatto il letto, chiuso in un armadio gli oggetti, poi sprangato le persiane. Per mesi e mesi nessuno ci sarebbe entrato, tranne la paziente polvere e nei giorni di sole, tenui strisce di luce. Eccolo rinserrato nel buio, il piccolo mondo della sua fanciullezza. La madre l'avrebbe conservato così finché lui, tornando, ci si ritrovasse ancora, perché lui potesse là dentro rimanere ragazzo, anche dopo la lunga assenza. Oh, Certo, lei si illudeva di poter conservare intatta una felicità per sempre scomparsa, di trattenere la fuga del tempo, che riaprendo le porte e le finestre al ritorno del figlio, le cose sarebbero tornate come prima. L'amico Vescovi, qui, lo salutò affettuosamente, e Drogo continuò solo per la strada, avvicinandosi alle montagne. Il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle che conduceva alla fortezza. A destra, in cima a un monte, si vedeva la ridotta che il Vescovi gli aveva indicato. Non sembrava che ci dovesse essere ancora molta strada. Ansioso di arrivare, Drogo, senza fermarsi a mangiare, spinse il cavallo già stanco su per la strada, che si faceva ripida e incassata fra precipitosi costoni. Gli incontri erano sempre più rari. A un carrettiere Giovanni domandò quanto tempo ci fosse per arrivare alla fortezza. «La fortezza», rispose l'uomo. «Quale fortezza?» «La fortezza Bastiani», disse Drogo. «Ah, da queste parti non ci sono fortezze», fece il carrettiere. «Non l'ho mai sentito dire». Evidentemente era male informato. Drogo riprese il cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano che il pomeriggio avanzava. Egli scrutava i bordi altissimi della valle per scoprire la fortezza. Immaginava una specie di antico castello con muraglie vertiginose. E passando le ore, sempre più si convinceva che Francesco gli aveva dato un'informazione sbagliata. La ridotta da lui indicata doveva essere già molto indietro e si avvicinava la sera. Guardateli, Giovanni Drogo e il suo cavallo, come piccoli sul fianco delle montagne che si fanno sempre più grandi e selvagge. Egli continuava a salire per arrivare alla fortezza in giornata, ma più svelte di lui, dal fondo, dove romba il torrente, più svelte di lui, salgono le ombre. A un certo punto esse si trovano proprio all'altezza di Drogo, sul versante opposto della gola. Sembrano per un momento rallentare la corsa, come per non scoraggiarlo. Poi scivolano su per i greppi e i roccioni e il cavaliere è rimasto di sotto. Tutto il vallone era già zeppo di tenebre violette. Solo le nude creste erbose, a incredibile altezza, erano illuminate dal sole, quando Drogo si trovò improvvisamente davanti, nera e gigantesca, contro il purissimo cielo della sera, una costruzione militaresca che sembrava antica e deserta. Giovanni si sentì battere il cuore, poiché quella doveva essere la fortezza, ma tutto, dalle mura al paesaggio, traspirava un'aria inospitale e sinistra. Girò intorno senza trovare l'ingresso. Benché fosse già scuro, nessuna finestra era accesa, né si scorgevano lumi di scolte sul ciglio dei muraglioni. Solo un pipistrello c'era, che oscillava contro una nube bianca. Finalmente Drogo provò a chiamare. «Oh là!» gridò. «C'è nessuno!» Dall'ombra accumulata ai piedi delle mura sorse allora un uomo. Un tipo di vagabondo e di povero, con una barba grigia e un piccolo sacco in mano. Nella penombra, però, non si distingueva bene, solo il bianco dei suoi occhi dava riflessi. Drogo lo guardò con riconoscenza. «Di chi cerchi, signore?» domandò. «La fortezza cerco. È questa?» «Non c'è più fortezza qui», fece lo sconosciuto con voce bonaria. «È tutto chiuso. Saranno 10 anni che non c'è nessuno». «E dov'è la fortezza, allora?» chiese Drogo, improvvisamente irritato, contro quell'uomo. «Che fortezza? Forse quella?» E così dicendo, lo sconosciuto tendeva un braccio a indicare qualcosa. In uno spiraglio delle vicine rupi, già ricoperte di buio, dietro una caotica scalinata di creste, a una lontananza incalcolabile, immerso ancora nel rosso sole del tramonto, come uscito da un incantesimo, Giovanni Drogo vide allora un nudo colle e sul ciglio di esso una striscia regolare e geometrica di uno speciale colore giallastro, il profilo della fortezza. Oh, quanto lontana ancora! Chissà quante ore di strada, e il suo cavallo era già sfinito. Drogo la fissava affascinato, si domandava che cosa ci potesse essere di desiderabile in quella solitaria bicocca, quasi inaccessibile, così separata dal mondo. Quali segreti nascondeva? Ma erano gli ultimi istanti. Già l'ultimo sole si staccava lentamente dal remoto colle e su per i gialli bastioni irrompevano le livide folate della notte sopraggiungente. Il buio lo raggiunse ancora in cammino. La valle si era stretta e la fortezza era scomparsa dietro le montagne incombenti. Non c'erano lumi, neppure voci di uccelli notturni. Solo di tanto in tanto arrivava suono di acque lontane. Provò a chiamare, ma gli echi gli respinsero la voce con timbro nemico. Legò il cavallo a un moncone di albero sul ciglio della via, dove avrebbe potuto trovare dell'erba. Qui si sedette, la schiena sulla scarpata. Aspettò che venisse il sonno e intanto pensava alla strada che rimaneva, alla gente che avrebbe trovato la fortezza, alla vita futura, senza riconoscere alcun motivo di gioia. Il cavallo batteva a intervalli le unghie sul terreno, in modo antipatico e strano. All'alba, riprendendo la via, si accorse che sull'opposto versante del vallone, a uguale altezza, c'era un'altra strada e poco dopo vi scorse qualche cosa che si muoveva. Il sole non era ancora sceso fin laggiù e le ombre ingombravano le rientranze, impedendo di distinguere bene. Pure, affrettando il passo, Drogo riuscì a portarsi alla medesima altezza e constatò che era un uomo, un ufficiale a cavallo. Un uomo come lui, finalmente. Una creatura amica con cui avrebbe potuto ridere e scherzare, parlare della prossima vita comune, di cacce, di donne, della città. Della città che ora sembrava a Drogo relegata in un mondo lontanissimo. Stringendosi intanto la valle, le due strade si avvicinavano e Giovanni Drogo vide che l'altro era un capitano. Non si fidò sulle prime di gridare, sarebbe parso inutile e irrispettoso. Salutò invece a più riprese, portando la destra al berretto, ma l'altro non rispondeva. Evidentemente non si era accorto di Drogo. «Signor capitano!» gridò finalmente Giovanni, vinto dall'impazienza, e salutò di nuovo. «Cosa c'è?» rispose una voce dall'altra parte, il capitano, fermatosi, aveva salutato con correttezza e ora chiedeva a Drogo ragione di quel grido. Non c'era nella richiesta alcuna severità, si capiva però che l'ufficiale era rimasto sorpreso. «Che cosa c'è?» echeggiò ancora la voce del capitano, questa volta leggermente irritata. Giovanni si fermò, fece portavoce con le mani e rispose con tutto il fiato. «Niente! Desideravo salutarla!» Era una spiegazione stupida, quasi offensiva, perché poteva lasciar pensare a uno scherzo. Drogo se ne pentì immediatamente. In che razza di ridicolo impiccio era andato mai a cacciarsi? Tutto perché non era capace di bastare a se stesso. «Chi è?» gridò di rimando il capitano. Era la domanda temuta da Drogo. Quello strano colloquio da una parte all'altra della valle andava così assumendo il tono di un interrogatorio gerarchico. Spiacevole inizio, perché era probabile, se non certo, che il capitano fosse uno della fortezza. Comunque bisognava rispondere. «Tenente Drogo!» gridò Giovanni per presentarsi. Il capitano non lo conosceva, non poteva con ogni probabilità afferrare il nome a quella distanza, ma parve quietarsi, poiché riprese il cammino facendo un segno di intesa, come a dire che fra poco si sarebbero incontrati. Infatti, dopo mezz'ora, a una stretta della gola, comparve un ponte. Le due vie si congiungevano in una. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.